I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Si è tolto ieri qualche sassolino dalla scarpa il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi durante il forum delle banche centrali mondiali che si è tenuto a Sintra in Portogallo. Draghi infatti ha ricordato che il vento è cambiato nell'area euro e sul versante politico spirano venti a favore di riforme ma anche di coesione, consumi e investimenti. Ma i sassolini sono arrivati da un'altra considerazione del presidente della Banca Centrale Europea. Mario Draghi, dopo aver ricordato che la ripresa dell'area euro è al di sopra delle attese ed è ben distribuita, ha invitato però anche alla prudenza su quando terminare l'aiuto, ossia il quantitative easing che la BCE dà regolarmente, 60 miliardi di euro di acquisti di titoli di Stato ogni mese. E poi ha ricordato che da quando lui ha lanciato il quantitative easing, e quindi dall'inizio degli acquisti di titoli pubblici, era il gennaio 2015, ad oggi l'economia dell'area euro è cresciuta del 3,6%, ben più degli Stati Uniti dopo operazioni analoghe, e nello stesso tempo l'occupazione è cresciuta di oltre 4 milioni. Draghi parlava ai suoi colleghi delle altre banche centrali, ma riferimento alla Germania, alle polemiche che hanno accompagnato il suo ruolo, capeggiate anche da chi vorrebbe prendere il posto, ossia il presidente della Bundesbank, Weidmann, erano più che evidenti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Se a livello globale la crescita economica si va consolidando, per l'Italia è sempre azzardato parlare di ripresa, vista la durata e l'intensità della caduta per gli indicatori economici in questi anni. Qualcosa però si sta muovendo e oggi lo confermano sia Standard & Poor's con il global rating sull'Eurozona, sia le nuove previsioni del centro studi Confindustria. In entrambi i casi vediamo una revisione al rialzo della crescita, sia per il 2017 sia per il 2018, in buona parte dovuto all'innalzamento delle rilevazioni Istat. Quest'anno nel nostro paese il PIL dovrebbe segnare un incremento dell'1,3%, ben oltre le precedenti previsioni, ad esempio quelle del Centro Studi Confindustria lo davano inchiodato allo 0,8%. Si tratta di un'accelerazione trainata sia dal buon andamento dell'export sia la crescita rilevante degli investimenti. Ecco, ma perché questi dati vanno presi senza troppi trionfalismi? Beh, innanzitutto perché, lo ribadisce anche il Centro Studi Confindustria, serviranno almeno altri 5 anni fino al 2023 per riportare le lancette dell'economia ai livelli pre-crisi. Poi perché questi buoni segnali sulla crescita si contrappongono invece a dati non proprio incoraggianti sull'occupazione, che continuerà a soffrire, crescerà ma più lentamente rispetto ai già bassi livelli attuali. Il terzo motivo è che, come sempre, bisogna guardare anche agli altri paesi. La Germania crescerà quest'anno del 2%, la Francia dell'1,7%, per non dire della Spagna che arriverà addirittura al 3%. Ecco spiegata la cautela sui nostri dati. L'Italia va meglio, ma resta a ruota degli altri. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.